pensa già a un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No, bovino della Gallura? No, ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino, vino di una volta. Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa, questa robina qua? Ah sì, viene da sentirla tutta perché è proprio carina. Ho beccato questa canzoncina che ormai, come sapete, è un po' la sigla di questi spazi di Foodopia, questo incontro che abbiamo fatto con Mauro Serafini, che io torno a salutare, insomma. Come prof, va? Bentornato. Ma salve, salve a tutti e a tutte. Prof, grazie. Commenda un po', così ti prendo in giro, non ti arrabbi, vero? Mi fa piacere, ci manca. Oggi sei pure molto elegante perché, appunto, diciamo che vieni calduccio e croccante dall'Accademia del Lincei, adesso tanto per dire, dove c'è stato appunto questo... per quest'anno, no? Da quello che capisco, cioè tutti gli anni, tu correggimi se sbaglio perché sto proprio un po' improvvisando, la ricerca scientifica al servizio del paese. Questo, insomma, incontro, congresso, convegno, non so, simposio, chiamiamolo un po'. Bel come... nome. No? Sì, sì. Così vedo un bel nome. Un bel nome, una cosa importante, sarà stato pure un passo fighissimo, tu sei molto elegante e che ci sono certi, ci sono un po' di nomi. Dillo tu perché tanto io è inutile, non lo so. Sì, insomma, sì, no, questo qua, questo titolo fantastico, diciamo, è stato proposto dal gruppo 2003, no? Che è il gruppo che racchiude tutti gli highly cited, cioè gli scienziati italiani che sono i più citati al mondo, e quindi c'è proprio questo gruppo dal 2003. E quindi ogni anno c'è un convegno a tema, no? E quest'anno l'argomento è sempre e comunque la ricerca. Quest'anno c'è stata la presenza sia del ministro, della ministra, anzi della ricerca, che è venuta, chiaramente ha fatto i saluti, ha detto due cose e se n'è andata, no? Infatti c'era Garattini che, insomma, che ormai c'è una certa età e si può permettere di dire certe cose, ha detto vabbè basta con queste storie, non la invitiamo più, perché tanto, ma se viene non sente niente, dice due cose e se ne va, ma che viene a fare? A parte questo, no? C'è stata la lecture, anche la lettura magistrale del premio Nobel della fisica Giorgio Parisi, altri interventi, e in quest'ambito c'è stata anche la presentazione dei risultati praticamente di due gruppi di lavoro di ricercatori appunto del gruppo 2003 su due argomenti, uno relativo all'agricoltura e un altro che era quello che ho organizzato io con altri colleghi sulle nuove frontiere della prevenzione, alimentazione funzionale e immunità. Alimentazione funzionale e immunità, poi di questi tempi immunità tutti con l'orecchio a pizzo. È immunità, e quindi voglio dire, continuiamo a parlare di cose che ci possono aiutare, no? O comunque a porre un'attenzione, sempre facendo però riferimento, diciamo, a delle cose specifiche, credo, no? Sì, sì. Allora, diciamo che l'ottica, l'idea, adesso è stato presentato da me chiaramente come intervento, però quello che abbiamo fatto, la mia proposta è stata quella, che è stata poi accettata, di fare proprio un documento per la popolazione fondamentalmente, cioè un qualcosa che potesse essere comunicativo, semplice abbastanza, insomma sono sempre argomenti complessi, e fruibile dalla maggior parte della gente, quindi anche con dei suggerimenti che poi sono alcuni sono tra quelli che abbiamo, di cui abbiamo già parlato qui, no? Per cui poi uscirà questo format, questo documento, che verrà, dovrà essere distribuito, immagino, adesso non lo so come e perché, però sarà libero chiaramente, e questa era un po' la prima presentazione. Le persone che hanno contribuito a questo sono Paolo Vines dell'Imperial College di Londra, il Daniele Del Rio di Parma, che è un ordinario di nutrizione, Bellomo, che è anche lui ordinario al Politecnico, ma è un matematico, perché in questo documento, oltre alle cose classiche di cui adesso parleremo, c'era anche questa questa parte sull'applicazione, pensa un po', dei modelli matematici nello studio dei rapporti tra nutrizione, immunità e salute, che è una cosa assolutamente fantastica, no? Che ci fa capire come la matematica entra in tutto. Davvero. Basta conoscerla, che non è facile. È lì che c'è. Questo è chiaro. E poi c'era anche l'immunologo, un capitolo appunto scritto dall'immunologo perché serviva l'esperto vero, che è Mago Clerici, professore di immunologia all'Università di Milano. Quindi insomma mi avevo messo insieme un po' di esperti per parlare proprio di questo aspetto, cioè nel senso che questo discorso dell'immunità e dei rapporti con la nutrizione è chiaramente un aspetto focale, soprattutto per un motivo molto semplice, perché è veramente poco studiato. E se noi andiamo un po' a vedere quello che è presente in letteratura, c'è pochissimo. Nell'essere umano c'è ancora meno, per cui non si fanno passi avanti, nel senso che c'è ancora tantissimo da fare e ci siamo resi conto come invece questo sia un argomento molto molto focale, no? Ne abbiamo già parlato anche in un'ottica di infezioni virali varie, no? Cioè è chiaro che se tu sei una persona che è già infiammata di suo, sei più sensibile alle infezioni. E già questo ci fa capire come sia importante poi modulare questa risposta infiammatoria. Ma se vuoi facciamo proprio un breve pillola di quello che è stato un po' tutto il discorso. Beh, insomma, abbiamo il tempo, sì. Tu hai insomma la maestria, perché poi hai anche molta capacità di sintesi e nonostante la sintesi essere chiaro, quindi io credo che sia importante. Credo che poi appunto tutto questo noi lo dobbiamo riferire là dove si manifestano delle patologie, no? Giustamente noi facendo queste trasmissioni riceviamo tanti input, so che su questo poi anche svilupperemo questa cosa, quindi qui stiamo parlando di quando si entra nell'ambito di malattie, cioè sto male e quindi da dove viene la mia malattia, no? E quindi non è una condizione di essere, no? È quando il nostro essere comincia a dirci che c'è qualcosa che non va. Guarda, io che non ho la vita... Poi apriremo secondo me tante porte, perché è giusto, mai queste trasmissioni vogliono essere un giudizio. Quando noi parliamo di obesità è perché parliamo di patologie che vengono relazionate a tutta una serie di meccanismi che possono... diciamo che sono sicuramente avvantaggiati se si è una persona sovrappeso, ma che non per forza si manifestano. Questo non è un giudizio, per esempio, non vuole essere un giudizio grassofobico. Su questo ce lo siamo detto, ragioneremo, perché abbiamo ricevuto tanti input. Tra l'altro, appunto, tu mi dicevi che nelle tue lezioni immancabilmente partecipano persone, quindi non è che è un discorso che non entri. Tornando al punto, appunto, no? Io dicevo, facciamo questa pillola perché credo che sia importante. Laddove comunque ci riferiamo esattamente a delle cose specifiche. Ma assolutamente, e proprio rifacendomi a quello che dicevi tu, cioè non c'è proprio, il giudizio è proprio fuori da questo discorso, ma neanche lontanamente ci ha sfiorato una cosa del genere, soprattutto perché anzi ci deve essere proprio comprensione massima, perché in genere a parte che quello che diciamo poi è rivolto a un discorso primario di prevenzione, ma poi quando parliamo d'obesità, o potremmo parlare anche, no, dei disturbi binge eating, anoressia o quello che sia, comunque sono tutte situazioni dove ci deve essere la massima comprensione, perché molto spesso c'è una problematica che è quella che si manifesta, ma dietro c'è un mondo nascosto che non a deve caso, essere poi, affrontato sì. In maniera molto molto cauta, assolutamente, con la massima comprensione. Non a caso poi anche i nomi di queste patologie spesso sono riferiti all'epoca e al sistema, certo, in cui siamo stretti e strette, no? Ne abbiamo parlato, certo, tanto. Quando si parla di tempi a cui siamo obbligati per curare la nostra alimentazione, credo che forse questo rientri anche molto, no? Sì, no, ma sicuramente, ma infatti in genere in queste situazioni tu devi avere sempre a parte il nutrizionista, ma anche il conforto psicologico, cioè il supporto psicologico, cioè è un insieme di cose, è evidente, devono essere proprio trattate con i guanti. Anche perché ho capito io, l'idea, diceva Mauro, è diffondere, dare informazione, soprattutto in un ambito dove sembra della ricerca in particolare questa non c'è tanto, si tratta di saperne ancora di più, senza fare la morale. Non si tratta, no, esatto, di fare la morale a nessuno. Cioè io che non ho la vita più salutare, io non vorrei snocciolare proprio tuttora, perché casomai sì, invece riusciamo, sì, anche sì, a far, certo, partecipare, certo, persone che ne parlano direttamente, qui nessuno, no, di noi appartiene a queste categorie, infatti. Quindi io non vorrei poi sovrascrivere invece parole di altre persone. Invece siccome il tempo stringe, sì, tornerei proprio al allora, punto. Dunque, diciamo che siamo partiti proprio da l'abbiamo presa un po' alla larga, ma è importante perché siamo partiti da quello che è il concetto di esposoma, che è una cosa fantastica secondo me, che è praticamente che è una semplicità incredibile, no? Spaventosa, perché poi è sempre così, no? Le scoperte o comunque le applicazioni che funzionano sono quelle semplici, però poi non ci pensa mai nessuno. Il concetto di esposoma è stato sviluppato da, appunto da Vines lì a Londra. E che cosa vuol dire? Vuol dire tutto quello che in termini di stressor, come dire, di stimoli positivi e negativi incontriamo nel corso della nostra vita, proprio dall'utero fino alla fine dei nostri giorni, no? Ed è, capiamo in maniera evidente che tutto quello che abbiamo in termini di stile di vita, alimentazione, inquinamento, abitudini tipo il fumo, eccetera, eccetera, ha un impatto sulla nostra fisiologia, ancor di più sul sistema immunitario. Per cui questo è un approccio che viene utilizzato su grossi studi di popolazione, dove vengono applicate tecniche anche complicate, no? Si va, adesso ve le sparo tutte così, poi capiamo di che si tratta, no? Nutrigenomica, metabolomica, farmacologia applicata, cioè c'è di tutto, insomma, no? Nel senso che vuol dire? Questi grossi studi di corte vengono chiaramente fatti dei questionari, vengono presi dei fluidi biologici e si misurano aspetti diversi, si correlano alle informazioni che si hanno sui soggetti, in maniera tale da capire poi, in un'ottica ampia, ampissima, che è proprio quella dell'esposoma, quali sono le potenziali variabili che possono influenzare una riduzione del rischio in generale e una maggiore longevità. Quindi questo è proprio il contenitore grande, no? Per cui è un qualcosa che è difficile da studiare, perché poi le interferenze, le variabili sono tantissime, però dà delle indicazioni. E delle indicazioni che ci portano chiaramente a definire come il sistema immunitario sia assolutamente centrale in questo, no? In positivo e in negativo, perché se noi facciamo un esempio comprensibilissimo, che è quello dell'attività fisica, no? Allora, se ci pensate, l'attività fisica che succede? Noi bruciamo ossigeno, produciamo radicali liberi, e come abbiamo detto che i radicali liberi forse fanno male, e invece l'attività fisica è l'unica cosa insieme alla dieta, alla nutrizione che può far bene. Perché? Perché comunque c'è uno stimolo per il sistema immunitario che quindi si rafforza in qualche modo, no? È il concetto proprio dello stress ridotto, per cui il sistema immunitario si adegua e poi si rafforza quando lo rincontra un'altra volta. Per cui è un argomento assolutamente affascinante. In questo lavoro, in questo documento, ci siamo focalizzati su quella parola chiave che ormai tutti conoscete, che è proprio l'infiammazione, no? Questa risposta del sistema immunitario quando abbiamo un problema di qualsiasi tipo, che possa essere infezione virale, microbica, batterica, o la famosa infiammazione da cibo. Ne abbiamo parlato la prima volta per quando abbiamo presentato appunto il lavoro del primo evento di Foodopia, cioè quando noi mangiamo il sistema immunitario si attiva, per cui fondamentalmente dall'esposoma, dal rapporto col sistema immunitario, siamo andati a capire, a vedere, diciamo, a descrivere quali sono le variabili legate all'alimentazione per modulare il sistema immunitario. Tra queste, una di quelle più importanti è il famoso microbiota, cioè il fatto che noi nel nostro corpo, nel nostro intestino, abbiamo più virus, batteri, microorganismi, tutte le cellule del nostro corpo, cioè c'è proprio una foresta viva nel nostro intestino. E la cosa affascinante anche lì è che questi microbi, questi microorganismi, si selezionano a seconda del nostro stile di vita, a seconda quindi dell'esposoma ripreso in maniera ampia. E che succede? Abbiamo due possibilità: un equilibrio microbiologico tra virgolette sano, quello che abbiamo definito omeostasi, no? L'equilibrio quello giusto, quello fisiologico, no? Attraverso il quale non c'è infiammazione e questi microbi addirittura hanno un effetto positivo sul sistema immunitario. Per cui il legame è esposoma, dieta, microbi buoni tra virgolette, miglioramento del sistema immunitario, resistenza a tutto. Ok. Dall'altra parte, se invece l'esposoma, la dieta è assolutamente sul negativo, diciamo, tanti, è quello che abbiamo detto, tanti grassi, cibi processati, tanta energia, mangio tanto, è male, totale. questi microbi si selezionano i microbi, quelli che non fanno bene. Il peggio, il peggio viene fuori così, in un contesto merda, viene fuori il peggio del peggio, anche dentro di noi. Eh certo, dentro di noi, capito? Ci fa male. Il nemico dentro, no? The beast within, la bestia all'interno di noi proprio, no? E tutto questo poi c'ha un effetto sul sistema immunitario in maniera negativa. E quella condizione si chiama proprio disbiosi, no? E quindi questo è proprio tutto il sistema, diciamo, no? Però poi ci siamo interrogati su una cosa, qui ne abbiamo parlato, anche se non in maniera ampia, su quella che io definisco la necessità di elaborare dei suggerimenti per la popolazione che siano legati a quella che io chiamo nutrition real life, cioè la nutrizione nella vita vera. Perché? Perché l'abbiamo accennato, no? Allora, c'è un cortocircuito tra quello che ci viene detto e quello che accade realmente. Nel senso che dal 1980 ad oggi, se noi andiamo a vedere le frequenze di mortalità per patologie degenerative e il numero, la frequenza di obesità nel mondo, non solo nei paesi industrializzati, c'è un aumento esponenziale. Per cui dal 1980 al 2022 c'è un aumento, è chiaro, netto. Poi andiamo a vedere che cosa dovremmo fare, è tutto chiaro, perché le raccomandazioni nutrizionali sono quelle da 100 anni ormai, no? Sono, tutti noi sappiamo che dobbiamo mangiare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, dobbiamo mangiare principalmente proteine vegetali, un ridotto consumo, un basso consumo di prodotti di origine animale, spezie, mandorle, legumi, eccetera eccetera. Però che succede? Succede che qualcosa non va, qualcosa non funziona. Sì, non si mangia così alla fine della qualcosa vita. Non funziona perché? Perché abbiamo studi recenti proprio fatti dagli americani nelle ultime linee guida che sono andati a vedere la cosa più importante, cioè hanno chiesto alla gente che cosa mangiassero e poi hanno visto, hanno fatto il confronto con le raccomandazioni. E se tu vedi, cioè la positiva è fantastica, perché tu vedi che tutti gli alimenti, quelli che effettivamente fanno bene, una percentuale va dal 70 al 90% della popolazione non raggiunge quelle raccomandazioni. Invece in tutti quelli che fanno meno bene, diciamo, quindi i prodotti d'origine animale, i cereali raffinati, gli zuccheri, sono tutti sopra. Per cui è proprio l'opposto, la vita vera è l'opposto. E allora che vogliamo? Siamo arrivati a quello. Perché ci siamo ridotti così? Mannaggia. Perché? È così però. Sì, no, è vero. E allora che cosa possiamo fare? Dobbiamo cercare un qualcosa, appunto dei suggerimenti, sempre su base scientifica, che possano in qualche modo aiutare la gente a adottare delle precauzioni, degli accorgimenti che non siano così restrittivi magari come le raccomandazioni, perché il concetto è sempre lo stesso, no? Noi vediamo la dieta, le raccomandazioni come una forzatura, una costrizione, non mangiare, devi mangiare quelle cose, no, ma a me non mi va, mi mangio quello che mi pare, eccetera, no? E il documento sviluppa proprio tutti questi aspetti. Di alcuni ne abbiamo parlati, di altri ne parleremo sempre in Foodopia. Per essere comunque abbastanza sintetico, diciamo che cosa abbiamo discusso. Allora, innanzitutto il punto focale, che rientra sempre nel discorso del microbiota, dell'immunità e della dieta, è la riduzione dello stress da cibo, no? Quello che abbiamo visto, lo stress postprandiale, ogni volta che mangiamo c'è questo aumento dello stress. Questo già lo sappiamo, ne abbiamo parlato, come facciamo a ridurlo? L'importante è associare ogni volta che noi mangiamo un alimento d'origine vegetale, che sia un legume, che sia frutta, verdura, anche il bicchiere di vino rosso. Perché? Perché contengono sostanze bioattive, come antiossidanti per esempio, che riducono quell'infiammazione, quella risposta, per cui la tengono bassa. E questo è una cosa che tutti possono fare. È immediata, è facile, è chiaro che se te non mangi minimamente frutta e verdura, lì il problema è un altro. Però, insomma, diciamo che questo è più semplice da seguire, no? Come raccomandazione. Un altro aspetto altresì importante, che però poi non dipende molto dalla popolazione, ma dipende anche dalla ricerca in quest'ambito, però si possono avere comunque delle informazioni, è quello di cercare di capire quanto è il nostro stress infiammatorio, cioè quanto siamo infiammati. Ma perché? Perché chiaramente, sempre in un'ottica di stress postprandiale, no? Allora, facciamo un esempio. Se io sono una persona che non è infiammata, che è normopeso, diciamo che io faccio un esempio idiota, ma giusto per essere chiarissimo. Se io mangio sempre lo stesso pasto per 10 anni, ok, io avrò un picco di infiammazione per 4-5 ore e poi tutto torna a livello normale. Ogni volta che io mangio quel pasto, quel picco sarà sempre lo stesso e io tornerò sempre a livello iniziale, e questo non mi creerà mai e poi mai nessun problema, ok? Se invece io sono una persona che è già infiammata, come per esempio una persona obesa, che succede? Stesso esempio, stesso pasto per X tempo, giorno dopo giorno, siccome io parto già da un livello alto, quel livello aumenterà ogni volta che io mangio quel pasto, in termini sia di intensità infiammatoria che in termini di lunghezza dello stress, per cui è una reazione a catena. Per questo è fondamentale poi cercare di capire quanto siamo infiammati, perché nel momento in cui, e quella diventa una sorta di diagnosi estremamente precoce, sulla quale io posso intervenire, perché capisco subito che c'è qualcosa che non va e allora devo modificare qualcosa. E quello è fondamentale, è una strategia proprio di prevenzione che dovrebbe essere fatta, ma ripeto, per quello che so io, tranne che magari nei centri più importanti per persone molto abbienti, non ci sono questi pacchetti di misurazione dell'infiammazione o altro, no? E se tu vai un po' a, io adesso non so i costi, ma credo che siano abbastanza alti, neanche forse te li fanno, no? Se tu vai dal laboratorio analisi e dici guarda, voglio misurare delle citochine, questo chissà che cifra ti spara, non lo so, mi informerò, però non credo che sia a basso prezzo. Per cui dicevo, questo però è un discorso legato proprio alla ricerca, cioè allo sviluppo di protocolli che possano permettere un confronto con dei livelli normali dopo un pasto di un certo tipo per capire quanto siamo stressati. E questo è fondamentale, perché quell'infiammazione nasconde altro, è questo il discorso, però è la spia che ci fa capire che c'è qualcosa che non va. Certo. Un grande il prof, eh? Beh, come sempre, insomma, io l'ho detto. Un grande. Cioè, stavamo stretti coi tempi, ha finito ancora prima di quando gli ha fatto. Ce n'è un'ultima però, dai, che accenno, perché poi sarà sì, soggetto della prossima, certo, di Foodopia. Sì. L'ultima, che era sicuramente la più affascinante, è la crononutrizione. Attenzione. Cioè, la crononutrizione, gli orari dei pasti. Sì, okay. Io con questo ci dovrò fare attenzione. Gli orari perché, dei pasti, infatti, perché qui è il discorso è di un fascino incredibile. Sì. Cioè, qui parliamo di ritmi circadiani, del fatto che la sera il nostro metabolismo rallenta. Ecco. E di quello che è tutti dal cornettaro. Clock, biological clock disruption, no? La rottura dell'orologio biologico. Perché? Perché noi, adesso lo sa, cioè, è evidente, negli ultimi 50 anni possiamo mangiare alle 3 di notte, alle 3 del mattino, anzi alle 4, alle 5, a qualsiasi ora. Non solo, i nostri stili di vita, il nostro lavoro ci porta molto spesso a non mangiare a pranzo e mangiare tantissimo a cena, ok? E questo è un problema. Abbiamo studi che ci dicono, studio dell'Università di Kyoto per esempio, che dove hanno dato a soggetti normalissimi lo stesso pasto. Stessi soggetti gliel'hanno dato alle 6 e alle 9, alle 18 e alle 9. Alle 18 c'era, in termini di picco glicemico, tipo un valore di 144. Quando mangiavano lo stesso pasto alle 9, quel valore era di 700. Ecco. Cioè, proprio questo è il punto, no? Per cui si può anche... Sì, mi viene in mente che io ho avuto il Covid e dopo mi hanno detto via della vitamina D, prenditela la mattina, perché la devi prendere quando l'organismo è attivo, se te la prendi la sera te passa accanto. Ho imparato pure tutta questa... Eh no, però così tutta questa... Vabbè, sì. Certo, è proprio questo. E infatti poi abbiamo parlato anche, e questo poi ne parleremo nella puntata di Foodopia dove parleremo di longevità, del nostro studio sui centenari abruzzesi, che avevano questa abitudine particolare che era lo sdiuno, che vuol dire stappa digiuno, dove noi siamo andati proprio a vedere gli orari dei pasti di questi centenari e centenarie, chiaramente. E lì esce fuori qualcosa, l'abbiamo pubblicato proprio questa settimana, qualcosa che non è mai stato fatto prima, perché nei centenari questo è un'informazione che non esisteva, dove proprio non ve lo dico, ne parliamo, ne parliamo quando parleremo di grande, come volete prof. Voi no. O teniamo il segreto, oppure teniamo, io terrei il segreto, teniamo così il segreto, lasciamo, dai, un po' così tutti affriggere, esatto. Si è capito un po', soprattutto chi ci ha seguito penso che ormai l'abbia capito, e quindi Mauro, grazie a voi. Io so che ci sentiremo spesso, so che Foodopia ricomincerà al Forte Live riparlando di cacao, quindi noi potremo anche, casomai, se c'è tempo, riproporle o comunque rimettere il podcast, ridare un po' di visibilità al podcast per chi se l'è perso, e poi cominciare invece con quelli che saranno gli appuntamenti. Tabula Rasa anche è qui, quindi poco. A me mi piace, mi fa un po' vecchia radio, succedeva sempre che ci si passava il mixer dicendo oh, sono arrivati, oh ciao, come stai, dai, allora adesso ci sono loro. Secondo me è una cosa molto bella, sono molto orgogliosa di questo pomeriggio, un po' faticoso, tutto un po' di corsa, ma ce l'abbiamo fatta, grazie a chi ci ha ascoltato. Ricordatevi che Radio Onda Rossa non campa d'aria, ma manco di pubblicità, neanche di padroncini e padroncioni, quindi campa con la vostra bellezza, la gioia di quello che voi ci sottoscrivete, ognuno a seconda delle proprie possibilità. Quindi io vi ringrazio, chiuderei con questo Mare Advertenzia Lirica, e come vi dicevo appunto poi ci sarà un passaggio di mixer e poi Tabula Rasa, come sempre, con un saluto particolare a tutte e tutti coloro che si vedono privati della propria libertà. Grazie Mariano anche per oggi. Ma a voi.